a mio malgrado. Ho imparato tutto l'alfabeto e maggiormente son parole che mi impongono un divieto. Basta, smettila, vediti che cazzo devi fare. Mentre te ne torni a casa, vai e non ti voltare. Troppe le parole che si usano in conversazione, troppe poche quelle che esprimono un'emozione. E per esprimere dolore basta una parola che si sa da sempre e non insegnano nella scuola. Si parla con gli amici, si parla coi parenti, ma molte parole sputa la lingua e trattengono i denti. Chi dice sempre quello che non deve dire e chi delle situazioni che vive non riesce a capire il come, il dove, il quando, il perché, ma poi si addolcisce la bocca con un Ferrero Rocher. Le parole sono finte e possono essere vere, sono poche le parole che in realtà sono sincere. In questi tempi bui, in questi tempi neri, si vive gridando fanculo sbirri e carabinieri. Ma molti di quelli che ora gridano queste parole nel futuro staranno a sperare nelle loro scuole. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nulla è mai stato più chiaro di così. Nulla è mai stato più semplice, lineare, nulla da capire. È tutto lineare ma non facile da intuire. L'alfabeto finisce, il dizionario è gigante. Imparare sempre nuove parole è stressante. Pesante però sentire e vedere le stesse, le solite parole come le solite promesse. Però quando sono vere hanno poca importanza, come a significare la perdita di una speranza. E quando saltano i nervi la bocca è una valanga di parole, ognuna pesa molto più di una spranga. In metallo puro, grezzo e pesante, ogni parola cade e fa un rumore assordante. Tutti lo sentiamo e gli diamo un po' di conto, come se fosse soltanto un altro punto da trattare tutti insieme, forzatamente, come quando poi è un'altra idea che non si sente. Ehi, non stiamo qui ad ascoltare quello che vogliamo, sorvoliamo su tutto. Ehi, troppe parole in questo mondo, troppe parole, troppe finte speranze.